Questa può essere la nostra ultima battaglia. In caso di sconfitta, non ci sarà salvamento per alcuno. Ognuno di voi ha esercitato questo mestiere con perizia e vero coraggio, e quasi tutti con fedeltà e lealtà. Tra non molto, nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi, al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità. Superiore. Quando risponde deve dire superiore. Io non lo sapevo, superiore. Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita. Sì. Scusi, secondino. Secondino, una cippa di cazzo, superiore. Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Non si fa educare le persone. È invivibile comunque. Quando uno c'ha paura, sempre spiato. Paura. Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore. Paura. Casino. Paura. È invivibile comunque. Trovi ad essere sempre spiato. Non si fa educare le persone. Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo. Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor. Liberare tutti, vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci, senza perdere un'ora. È un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno. Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora. E allora buongiorno a tutti e tutte, e buona libertà, questa è Radio Onda Rossa e questa è La Conta, trasmissione contro il carcere, che viene ogni mercoledì dalle 15 alle 16 sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Dunque, oltre appunto buona libertà a tutti e tutte, anche buona estate, chiaramente suona male per chi la passa i mesi caldi, i giorni caldi in quel triste crogiolo orribile che è il carcere, dove sappiamo in cella e anche nei passeggi si scoppia di calore, però questa è la situazione e sapevamo che non era una passeggiata, però per questo è importante mobilitarsi per cambiare la situazione. Vedremo che cosa è successo in questi giorni, in questi pochi giorni, che cosa sta succedendo in carcere, e poi affronteremo un po' nella seconda parte una riflessione un po' più di prospettiva, cercare di capire il carcere, che è un po' l'elemento centrale della repressione, come si sta sviluppando, in che senso, in che direzione sta andando la repressione, sia nei confronti del cosiddetto disordine sociale, cioè della tutta la microcriminalità, i furti, tutta ciò che contrasta la legge, l'ordine della proprietà privata, e dall'altra parte nei confronti dei conflitti sociali, quelli che sul territorio, nei posti di lavoro, ovunque cercano di contrastare la messa a profitto dei territori, quindi il degrado, l'appropriazione da parte dei capitalisti, dei forti del territorio, e quindi cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Bene, questo è quello che vogliamo appunto raccontarvi da questi microfoni. Un attimo di musica, un po' di musica, e poi vediamo appunto, iniziamo tutti insieme. Allora, 15.08, come avevamo detto già l'altra volta, notando questa sorta di schizofrenia da parte del governo, del ministro Andrea Orlando, che è appunto il responsabile della giustizia, il ministro della giustizia, ma anche un po' di tutto il contorno che segue gli ultimi anni della situazione giustizia in questo paese. Ci riferiamo al fatto che negli ultimi 2-3 anni si sono succeduti una serie di provvedimenti cosiddetti svuota carceri, che hanno cercato di rallentare l'ingresso in carcere nella situazione della carcerazione preventiva per coloro che non sono stati ancora condannati. Su questo terreno lo Stato italiano aveva ricevuto una forte critica e anche una sanzione da parte della Corte europea, perché diceva che erano e sono troppi le persone incarcerate non ancora condannate. In Italia fino all'altro anno erano circa il 40% le persone in carcerazione preventiva o custodia cautelare, cioè arrestati, incarcerati, non ancora condannati, molto superiore alla media europea, che è intorno al 12-13%. E quindi hanno fatto dei provvedimenti, l'ultimo è la legge approvata nel maggio scorso, quindi 2 mesi fa, che rallenta molto la possibilità di incarcerare le persone se non è avvenuto almeno il primo o grado di giudizio o addirittura l'appello. Questo è il problema. Il giudice, per incarcerare una persona non ancora condannata, deve provare, ma con prove certe e comunque relazionate, la possibilità di fuga o di inquinamento di prova. Queste sono le uniche 2 possibilità per incarcerare una persona prima di essere condannata. quindi rallenterà l'ingresso in carcere grazie a questa legge. Ovviamente sono esclusi da questa riduzione della carcerazione preventiva i soliti reati della attività della cosiddetta criminalità organizzata, terrorismo, traffico internazionale e così via. Però per tutti gli altri reati sarà difficile, mentre noi sappiamo che la gran parte delle persone incarcerate non ancora condannate erano persone che hanno fatto i cosiddetti reati bagatellari, cioè piccoli furti, rapine, scippi, eccetera. E proprio su questo terreno c'è stato l'altro provvedimento che chiama i cosiddetti di piccola tenuità, ossia quei reati tenui, cosiddetti di piccola, la cui massimale nel codice penale non prevede oltre 5 anni. Se è il primo reato, questi reati non vengono puniti, non passano sotto il codice penale. C'è una attività di riconciliazione tra colui che ha compiuto il reato e la vittima, un risarcimento, una pacificazione, insomma, e si evita il ricorso al penale. Tutti, e poi gli svuota carceri, che quando mancano 3 anni o per alcuni reati 4 anni alla fine della pena si può andare a concludere la pena in misura alternativa, quindi in arresti domiciliari, detenzione domiciliare, lavoro all'esterno e così via. Tutto questo serviva a ridurre il sovraffollamento che era arrivato, ricordiamo, nel 2011 a 70.000 presenze, fatto numero che aveva fatto scattare la sanzione della Corte Europea nei confronti dello Stato italiano, una pesante sanzione, che era una sanzione grossa combinata dalla Corte Europea allo Stato italiano, perché non rispettava la carta dei diritti del detenuto che pure aveva firmato. E la seconda cosa era che la Corte Europea aveva dato il via ai singoli detenuti o detenute che richiedevano un risarcimento allo Stato italiano per condizioni inumane o degradanti in cui erano stati tenuti. E qui è cominciata tutta una serie di processi in cui lo Stato italiano era perdente, fino al punto in cui appunto il governo, e in quel caso era Andrea Orlando, ha messo in piedi questi provvedimenti svuota carceri. Bene, in questi 3 anni è successo che quindi i detenuti sono passati da circa 70.000 a 54.000, l'attuale presenza in carcere, e quindi si dovrebbe marciare su questo terreno di tenere le carceri meno piene. Ma questo non vuol dire che diminuisce la pressione che noi chiamiamo repressione contro i reati del disordine sociale, appunto furti, rapine, piccole truffe, scippi, eccetera, oppure contro quelli del conflitto sociale, occupazione delle case, piccoli espropri o manifestazioni non autorizzate, scontri con la polizia, eccetera. Tutto questo non è che viene lasciato libero, magari, non è questo, anzi il contrario, questo viene perseguito pesantemente, però non attraverso il carcere, non sempre attraverso il carcere. Questa è la novità, che poi nella seconda parte cercheremo di ragionare per capire dove va questa tendenza. È una tendenza che non è solo in Italia, anzi l'Italia è un po' l'ultima ad arrivare a questo approdo, cioè i paesi come l'America, che è quella che ha il più alto numero di carcerati, perché negli anni precedenti la politica da Nixon in poi è stata, ma anche cioè ha preso sia democratici che repubblicani, nessuno si era salvato, puntavano a incarcerare la gente perché questo dava più tranquillità, secondo loro, ai cittadini normali, quindi più sicurezza e quindi più consenso elettorale. Poi questa cosa non ha funzionato più, perché il carcere costa troppo, 1,5 milioni di persone incarcerate ha una cifra spaventosa per i bilanci di quel paese, e quindi hanno pensato di cambiare rotta. La stessa cosa è avvenuta in Inghilterra, in Germania, poi sta avvenendo un po' in tutta Europa. L'Italia sta arrivando con difficoltà, però, perché ci sono forze politiche che vogliono invece tornare al fatto di buttare gente in carcere, perché questo, secondo loro, dà tranquillità al cittadino proprietario. È il vecchio slogan, lo sapete, ne parlano i giornali di destra, ma non solo di destra, oggi purtroppo anche quelli cosiddetti di sinistra, che una volta erano di sinistra, oppure tutti gli cosiddetti intellettuali, che poi intellettuali non sono, perlomeno mancano di intelletto, cioè tutta questa gente che dice proprietario, il piccolo proprietario ha paura dell'immigrato, del rom, di quello del vagabondo, eccetera, perché minaccia la propria proprietà, e quindi buttiamoli in galera così si sentono più tranquilli. La situazione è stata che le carceri sono sovraffollate, il cosiddetto crimine, il microcrimine non è diminuito, perché i motivi sono ben altri, sono la mancanza di un reddito diffuso, del lavoro e così via, e quindi hanno cambiato rotta. Quindi non il controllo penale rimarrà, anzi si dovrebbe estendere, ma non attraverso il carcere, attraverso quello che gli esperti, i tecnici chiamano controllo penale esterno. Lo vedremo tra un po'. Intanto vediamo che cosa questa settimana, che cosa ci ha ridotto questa contraddizione, perché da lì siamo partiti, diciamo vabbè, questa, perché il ministro Orlando l'aveva chiarito, lui appunto con i suoi proviene dalla cosiddetta sinistra, proviene dalla FIGC, la Federazione Giovanile Comunista, in qualche modo è stato anche da giovane nei movimenti, lui dice che è stato anche a Genova nel 2001 dalla parte dei movimenti, insomma, quindi aveva una possibilità di capire che veramente la tendenza doveva essere cambiata, non solo e tanto carcere, ma altri sistemi di controllo territoriali soprattutto. Ecco, e quindi ha messo in piedi, ne abbiamo parlato tanto, no? E gli stati generali dell'esecuzione penale, che l'esecuzione penale è proprio appunto quando uno viene condannato, come si esegue la sanzione, col carcere o in altro modo, e quindi lui ha detto riflettiamo, facendo addirittura 18 tavoli, affrontando il problema dell'esecuzione penale, quindi in carcere o altro, in tanti modi diversi. A me quindi sembrava che, però poi improvvisamente le tensioni, Salvini che chiede carcere, quell'altro che chiede carcere, alla fine il governo è scivolato, si fa per dire, nella cosiddetta volontà di recuperare qualche voto da parte dei piccoli proprietari un po' spaventati, terrorizzati, incapaci di capire che cosa sta succedendo, e quindi hanno aumentato le pene per proprio i reati bagatellari, quelli, il furto, con scippo e la piccola rapina, facendo una cosa che veramente fa accapponare la pelle. E l'altra volta in termini di trasmissione, vedendo questi dati, francamente forse mi sono un po' arrabbiato, chi ha ascoltato la trasmissione se ne è accorto, però vedendo che il reato di tortura, su cui stanno discutendo, anche su quello cambiano ogni passaggio parlamentare, cambiano qualcosa praticamente allungando il brodo, quindi il reato di tortura non sarà più niente, però la cui ultima formulazione dava da 2 a 10 anni, il reato di tortura va da 1 minuto di 2 fino a 10 anni, nella formulazione ne abbiamo parlato l'altra volta, comunque lo scippo va da 2 a 7 anni, e allora abbiamo detto ma vi pare che è possibile in un paese civile, che in qualche modo dovrebbe avere anche dei principi, dei valori, tenere la tortura sullo stesso piano dello scippo? Vuol dire che siamo alla barbarie totale. Se una classe dirigente, parlamentare, corrotta, mafiosa, tutto quello che volete, ma se arriva anche a questo punto, che è il punto peggiore di tutte le altre, è molto peggio della corruzione, è molto peggio pensare che avere un principio per cui la tortura, torturare una persona, che è la cosa più allucinante, più grave, più disumana, più inaccettabile, bene, la tortura viene equiparata allo scippo. Questa è una cosa veramente, a reato contro la proprietà, cioè toccare una cosa equivale a massacrare una persona. Ecco, a questa follia totale sono arrivati. E in maniera tardiva, non con i toni non adeguati, si sono un po' arrabbiati contro questa cosa anche Luigi Manconi e Stefano Anastasia. Stefano Anastasia è presidente di Antigone, Manconi sapete chi è, insomma, e hanno scritto sul Manifesto un articolo, la schizofrenia del governo bipartisan, vabbè. E quindi questo, così diceva il titolo, il ritorno alle carceri piene, perché aumentando i reati, questi che sono molto diffusi, i reati contro la proprietà, che sono gli unici reati aumentati negli ultimi anni da quando è corso questa cosiddetta crisi, cioè che non è altro che impoverimento delle classi subalterne, dei poveri, e arricchimento dei ricchi. Questa è la crisi, non è altro. Tutte le altre chiacchierate, deficit, debito, sono tutti imbrogli. Qualcuno, grandi politici, grandi economisti, l'hanno chiamato il più grosso imbroglio del secolo. Quello dei debiti, quello che stanno facendo alla Grecia, è un imbroglio, non ha niente di regolare. L'unica cosa regolare è stata vera, comprovata, l'ha rilevato l'Istat, è che dal 2007 a oggi si sono impoverite le classi basse e si sono arricchite quelle alte. Questa è la crisi, non altro. E crisi significa rideterminazione dei livelli di accumulazione capitalistica sulle spalle di chi? Dei poveri, dei proletari, di chi lavora. E questo è successo in Italia, ma non solo in Italia, è successo in tutto il mondo occidentale. Nelle altre parti non abbiamo dati, ma non che non sia, anzi forse da altre parti, per esempio immagino Brasile, questi India ancora più forte, è l'apertura del ventaglio tra ricchi e poveri. Però i dati che abbiamo sono dell'Europa e l'Europa ci dice che perfino in Nord Europa il ventaglio si è allargato meno forte che in Italia. In Italia si è quasi raddoppiato, cioè la differenza tra ricchi e poveri è aumentata del 100%, in Svezia del 30%, grave anch'esso. Questo vuol dire che la crisi, al di là delle persone corrotte, mafiose eccetera, ha questa valenza, e questo dobbiamo capire. Non è questione di debito, di credito, di banche, quello è un imbroglio, la truffa, i cravattari. Chi è romano sa a che cosa parlo. Parlo degli usurai, che a Roma vengono chiamati i cravattari, perché ti strangolano come fa uno quando ti mette una cravatta, no? La cravatta in termini di malavita vuol dire impiccarsi, e i cravattari sono quelli che danno i soldi a strozzo, strozzini. Ora, voi considerate che le banche tedesche davano il prestito alla Grecia con un interesse del 15%, che le norme in tutti i codici penali è chiamata usura, quindi una persona che dà il prestito al 15% viene arrestata, le banche vengono esaltate e portate al potere. Questa è l'assurdità di questo mondo in cui viviamo, però dipende da noi, la responsabilità è solo nostra, perché non riusciamo a cambiare questa situazione. Ma torniamo al reato di tortura. Si sono appunto sia Manconi che Stefano Anastasia prendono quella schizofrenia che avevamo un po' segnalato la volta scorsa e dicono: possibile che un governo che dice vuole ridurre il carcere, quindi passare al controllo penale esterno, aumentare le misure alternative, diminuire il carcere eccetera eccetera, poi per questione di prendere qualche voto in più si mette ad aumentare i reati, quelli più piccoli, quelli contro il patrimonio, il furto semplice, il furto con scasso, il furto con scippo eccetera eccetera, e quindi si lamentano di questa cosa. Possibile, dice, dove andremo a finire? Non sembri velleitaria, non lo leggiamo tutto perché è lungo, poi immagino qualcuno l'avrà letta, era sul manifesto dell'altro ieri, del 14. Non sembri velleitaria l'alternativa. In fondo la sentenza Torreggiani, quella da cui partì la sanzione della Corte Europea di cui abbiamo parlato, e la giurisprudenza umanitaria che si è affermata negli ultimi anni in molti paesi occidentali, hanno dichiarato il fallimento del modello di sicurezza, quello che dicevamo prima, no? Quello che più carcere porta più sicurezza, è fallito, i dati non corrispondono, dicono che è fallito quell'esperimento propugnato dai vari Salvini e compagnia bella, ma poi dalla Bossi Fini, da Giovannardi, da Maroni, prima loro sono stati promotori della sicurezza basata su più carcere, e poi questa infezione ha contaminato anche la cosiddetta sinistra. Oggi non abbiamo quasi nessuna forza politica in grado di dire è una stupidaggine il concetto di sicurezza basato sull'aumento delle persone buttate in carcere. Non è quello la sicurezza, probabilmente la sicurezza anche della piccola proprietà, per chi ce l'ha, viene tutelata dal fatto di sviluppare un benessere alla base, nelle classi subalterne, negli ultimi di questa terra, quindi dare servizi gratuiti, salari di disoccupazione e così via. Vabbè. E quindi si crea così, in questo modo hanno creato una nuova emergenza, aumentando da una parte appunto hanno creato i decreti svuota carcere, che invece allentavano la presenza in carcere per i reati minimi, hanno poi creato la difficoltà di mettere in galera la gente prima della sentenza, e poi invece aumentano le pene per i minimi della pena per i reati di furto, furto in abitazione, furto con strappo, furto piccola rapina eccetera eccetera. Tutto questo loro dicono, ma questi sono reati di allarme sociale, nel senso che le persone che hanno una piccola proprietà che pensano sia minacciata dallo sviluppo di questi furti danno consenso a quel partito che dice buttiamo tutti in carcere, buttiamo la chiave, che però non produce quello, perché i dati analizzati soprattutto in America, perché queste ricerche le fanno bene, e poi anche in Europa, dimostrano che più c'è galera e più aumenta i reati, perché non è legato alla presenza in, butti gente in carcere però lasci libero altre persone di occupare quel posto, cioè la famosa analisi fatta tratta dalla polizia di New York, quindi non sicuramente persone libertarie o amanti della critica al carcere. Loro hanno analizzato i dati, e i dati non perdonano, e in cui hanno detto: mettere in carcere, allora c'era la famosa guerra alla droga, che c'è ancora in America, però allora era il punto massimo di questa guerra alla droga. Cominciarono a incarcerare tutti i spacciatori, i piccoli spacciatori che erano all'angolo delle strade. Videro che aumentavano lo spaccio. Com'è possibile? Hanno ragionato, anche se erano guardie, però alla fine pare che ragionino meglio spesso dei politici, anche di sinistra. Fecero questo semplice ragionamento: dice, gli spacciatori stanno agli angoli delle strade, stanno lì in quanto hanno una domanda, cioè gente, che utenti, clienti, chiamateli come volete, che vanno da loro a comprare la droga, droghe leggere, quello che capita. Se questo lo arrestiamo, quel posto rimane sguarnito, non c'è nessuno che vende droga in quel punto, ma i clienti arrivano per acquistarla, e quindi un'altra persona prende il posto, diventa spacciatore, perché capisce che lì potrà tirar fuori un reddito. Per cui laddove c'era uno spacciatore se ne creano due con l'arresto. Poi, siccome devi tirarli fuori, perché non è che puoi dare l'ergastolo a ogni piccolo spacciatore, un anno di carcerazione di piccoli spacciatori ha raddoppiato il livello dello spaccio. Questo è un documento che pochi si apprestano a leggere, perché sapete, l'ignoranza è l'ideologia di questa in questa fase, partendo dai dirigenti delle banche fino ai capi dell'Europa, fino ai capi dei governi europei. Il dogma centrale è l'ignoranza e la stupidità. Allora, 15:28, ancora in diretta. Dunque, sull'altro aspetto, quindi sul reato di tortura che balzellona dalla Camera al Senato, e a ogni passaggio viene peggiorato, nel senso che viene diluita, diciamo, la critica, la possibilità di sanzione per coloro, delle forze dell'ordine, che esercitano tortura nei confronti delle persone, o maltrattamenti nei confronti delle persone arrestate. E qui c'è una nota della Unione Camere Penali. L'Unione Camere Penali, sapete, sono gli avvocati, i difensori, no? Che si sono uniti da sempre, e però stavolta da qualche anno hanno un'attenzione particolare non solo ai problemi della giustizia in generale, perché è il loro lavoro, loro dovrebbero stare e stanno in qualche modo dalla parte delle persone accusate, sono i difensori appunto, ma hanno anche un osservatorio sulle carceri. Ebbene, questa è la nota loro, la leggiamo perché è breve. Dopo 26 anni dalla ratifica della Convenzione ONU l'Italia ha ratificato quella convenzione ONU che parlava dei diritti dell'uomo in generale, e ovviamente della donna, però si usa comunque dei diritti della persona e anche dei diritti della persona detenuta. Dopo 26 anni dalla ratifica della convenzione ONU e ben 5 legislature che si sono occupate della materia, il Parlamento non riesce a definire il delitto di tortura. In Italia ancora non c'è. L'Unione delle Camere Penali Italiane, con il proprio osservatorio carcere, esprime la profonda delusione e preoccupazione per i recenti sviluppi del tormentato iter parlamentare del disegno di legge. Colpisce non tanto il fatto che la Commissione Giustizia del Senato abbia licenziato un testo nuovamente modificato rispetto a quello approvato dalla Camera dei Deputati, prefigurando la necessità di ulteriori letture parlamentari, con il conseguente e deprecabile effetto di prolungare i tempi di approvazione della legge, quanto il merito, soprattutto l'ispirazione delle modifiche apportate. Non tanto questa modifica, perché ogni legge deve essere approvata nella stessa lettura alla Camera e al Senato perché essere poi definitivamente approvata, ogni modifica anche di una virgola deve tornare alla Camera precedente. Quindi questo passaggio intanto sta prolungando il tempo, e così facendo per molti parlamentari hanno l'intenzione di portare alla fine della legislatura, in cui crolla anche il disegno di legge, e si dovrà ricominciare da capo. Questa è la prima. La seconda dice la natura delle modifiche su cui hanno fuori, e quali sono. Si evoca, dicono nelle modifiche interne apportate, si evoca l'esigenza di evitare che siano messe in discussione le prerogative costituzionalmente previste dalle forze dell'ordine per sostenere la previsione, che citiamo fra le altre perché ci pare la più importante, della necessaria reiterazione dell'uso della violenza quale forma di tortura. Ossia, nell'ultimo passaggio hanno messo questa innovazione che è veramente spaventosa. Per scattare il reato di tortura da parte delle forze dell'ordine significa che devi reiterare quel male che hai fatto. Cioè tu prendi una persona, la riempi di botte, oppure gli fai gli provochi del dolore o delle vessazioni fisiche e psichiche, però lo devi fare più di una volta, perché ci vuole la reiterazione dell'atto, altrimenti non è reato. E questa è una cosa veramente allucinante. Quindi della necessaria reiterazione dell'uso della violenza quale forma di tortura, che relega al di fuori della tutela penale la tortura una tantum. Se fai una tantum non è più reato, dimenticando che la Costituzione, quella italiana, nell'unica norma pertinente, cioè l'articolo 13 al comma 4, sancisse perentoriamente che è punita ogni violenza fisica e morale, quindi e psichica, sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà. Questa è la nota della Unione Camere Penali, che veramente, cioè, è una serie di parolacce se volessimo tradurla in romano, però questo dice: sono dei cialtroni, dei miserabili, perché stanno facendo di tutto per non far passare all'interno del codice penale il reato di tortura, che è un reato ascrivibile esclusivamente alle forze dell'ordine, perché la declaratoria così del testo dell'ONU, che più o meno ogni paese ha ripreso, diceva che appunto il reato di tortura scatta quando una persona è in pieno, in totale controllo di un'altra. Cioè quando una persona, se una persona libera scende per strada e prende a cazzotti un altro, non è il reato di tortura. Quelli ci stanno maltrattamenti, offese, già c'è tutta la formulazione, ma il reato di tortura scatta quando la persona sottoposta a sevizie è in totale controllo di un altro che l'ha tenuta in arresto, quindi è delle forze dell'ordine. E ovviamente le forze dell'ordine, tramite i loro sindacati, associazioni, cioè, non vogliono questo reato, perché gli leverebbe le mani libere che hanno oggi per poter fare quello che vogliono nei confronti delle persone arrestate, e quindi fanno pressione sui parlamentari di levargli il voto, di fare insomma. E ovviamente purtroppo gran parte delle forze parlamentari sono molto sensibili a questa pressione. Sullo stesso tema, sempre sul reato di tortura, c'è anche una nota di Amnesty International che dice sul DDL, disegno di legge DDL, sul reato di tortura, che è stato ulteriormente peggiorato, così come è inaccettabile. L'ha detto anche questo il 14 luglio, è una nota dell'agenzia ADN Kronos, eppure questa è breve, la leggiamo. Amnesty dice: è illogico il concetto di reiterante violenza, anche qui, cioè che vuol dire? Cioè se qualcuno ha la capacità di immaginare che cos'è il dolore imposto, o la sofferenza fisica o psichica imposta, sa che basta una volta per distruggere una persona. è più che sufficiente. Questo fatto di reiterare non si capisce. Quindi anche Amnesty si incazza da morire. È illogico il concetto di reiterate violenza. Dopo la modifica, dopo le modifiche, il DDL è un testo pessimo. E continua il rimpallo di questo DDL su Radio Tortura tra Camera e Senato. La Commissione Giustizia di Palazzo Madama infatti ha portato modifiche al testo, allungando ulteriormente l'iter parlamentare e quindi le polemiche si scatenano. Ritenevo il testo approvato dalla Camera mediocre, dice Luigi Manconi, presidente della Commissione Diritti Umani. Dopo le modifiche introdotte dal Senato lo ritengo pessimo. Giudizio negativo anche dal presidente di Amnesty International, che si chiama Antonio Marchesi, e dice: ne è uscito un testo notevolmente peggiorato, al punto che così com'è è inaccettabile. Se va avanti così l'alternativa è un pessimo testo oppure nessun testo. E questo è il punto. Ricorda la nota che l'Italia ha ratificato appunto nell'88, l'altro testo diceva 26 anni fa, questa nota dell'ONU per introdurre il reato della tortura. Cioè lo Stato italiano ha firmato questa nota dell'ONU e si è presa l'impegno di introdurre nel proprio ordinamento penale il reato di tortura, poi non l'ha fatto. Sono passate 5 legislature, i disegni di legge sono stati presentati tanti, tutti sono finiti nel cestino. Allora, vediamo un altro punto, poi così concluderemo questa panoramica sulle situazioni concrete. Dunque, la vicenda della chiusura degli OPG, che è scattata formalmente il 31 marzo scorso, però concretamente, realmente, non è vero che sono stati chiusi gli OPG, ancora sono aperti le REMS che devono sostituire gli OPG e che avevano non più strutture come gli OPG del Ministero della Giustizia, quindi semicarceri, ma del Ministero della Sanità, quindi luoghi di cura. Non è che cambiasse molto il controllo psichiatrico, però comunque era un passaggio fatto da una legge, quindi almeno quella doveva essere applicato. Non è stato applicato, tant'è vero al punto tale che a Montelupo Fiorentino l'OPG è ancora aperto, ma non solo lui, quello tantissimi sono stati aperti, e i detenuti, perché sono detenuti, reclusi, come chiamate come volete, sono persone tenute sotto controllo 24 ore al giorno di Montelupo Fiorentino, hanno fatto un ricorso perché appunto in violazione della legge non sono ancora pronte le REMS. La legge italiana, dello Stato italiano, diceva che il 31 marzo si dovevano chiudere gli OPG e ogni regione doveva predisporre delle REMS, sono per l'esecuzione delle misure di sicurezza a livello regionale, non più di 20 ciascuna, dipendenti dal Ministero della Sanità, non più quindi della Giustizia, insomma, cambiando un po' tutta la... però non sono state fatte e hanno fatto questo ricorso. È illegittimo, è la violazione dell'articolo 13 della Costituzione, che sancisce l'inviolabilità della libertà personale. Siccome c'è una legge che dice che tu non devi stare più nell'OPG, che presuppone un controllo totale, e quindi la legge dice che anche le persone cosiddette inferme di mente devono essere messe in libertà e controllate dalle REMS, che dovrebbero avere, e non si sa manco quale, però dovrebbero avere un altro sistema di controllo psichiatrico della persona inferma di mente. Questo è tutto da definire, perché la legge è stata fatta male, siamo d'accordo, è imprecisa, non c'è un regolamento, tutto quello che volete, però comunque la legge c'è, la legge dello Stato. Quando una persona, un singolo cittadino, soprattutto delle classi subalterne, basse, lavoratore o lavoratrice, viola una legge, anche se fatta male, becca subito la sanzione, multa, carcere, eccetera. Questa volta è lo Stato che viola una legge che lui stesso ha fatto, e quindi non si capisce perché. E giustamente questi detenuti dell'OPG stanno ancora a metà luglio nel carcere, nell'OPG di Montelupo Fiorentino, e quindi hanno fatto questo ricorso. Ovviamente già immaginate tutti e tutte come finirà nel nulla, però insomma almeno appoggiati da qualcuno, Franco Corleone, uno che è stato anche Emilio Santoro, sono dei giuristi che stanno dalla parte dell'altro diritto, fanno dei lavori così, la Fondazione Michelucci, fanno dei buoni lavori di carattere teorico sulla critica del diritto sanzionatorio, però come pratiche per cambiare questa situazione, francamente, vabbè, non dipende solo da loro, evidentemente i settori sociali non si muovono, perché ricordate ai tempi negli anni 70, per chiudere i manicomi civili ci è voluto un bel movimento forte, altrimenti anche quelle quattro idee, insomma, dell'antipsichiatri di allora, tra cui Franco Basaglia, non avrebbero ottenuto quel risultato. Poi la legge è stata modificata, peggiorata nel corso, come passando dalla Camera al Senato, Senato-Camera, ormai c'è questo giochettino di passare da una Camera all'altra, peggiorando sempre di più, alla fine per disperazione di fanno approvare un testo, vabbè, che quindi non è buono il testo dell'abolizione dei manicomi, però comunque si è ottenuto, ma quello si è ottenuto grazie alle manifestazioni che hanno appoggiato la critica psichiatrica allora diffusa, la critica al controllo psichiatrico, la critica all'internamento delle persone ritenute non sane di mente, perché se una persona sta male, non c'è nessuna malattia prevede la reclusione. Se è una malattia quella, ammesso che sia una malattia, io non sono d'accordo, molti non sono d'accordo, perché il controllo psichiatrico agisce sul pensiero, e nessuno è in grado di dire qual è il pensiero giusto e qual è quello sbagliato. Se lo fa è un dittatore, è un criminale, un mafioso, cioè il pensiero dovrebbe essere lasciato libero, e quindi anche i comportamenti, purché non ledono la libertà degli altri. Questi sono i principi liberali del Settecento, e quindi non dico niente di rivoluzionario, figurati, però ovviamente qui siamo molto lontano anche da quel pensiero liberale che diceva ognuno è libero di pensare e agire come vuole, purché non lede la libertà degli altri. Questo è lo schema del pensiero liberale. Ovviamente qui siamo tutt'altro. Se un medico dice tu sei c'hai mal di stomaco, mal di freni, mal di cuore, qualunque cosa, tu decidi poi se andare in ospedale a farti curare, o se ti curi a casa, o se non ti curi, fai quello che ti pare, perché la vita è tua. Se uno viene dichiarato invece infermo di mente, lì ti prendono delle forze dell'ordine e ti recludono per importi una cura, un trattamento obbligatorio. E infatti il TSO è quello, ed è una cosa assurda, inconcepibile, perché le altre malattie non c'è il diritto di dice io quando mi sono operato al cuore mi hanno fatto firmare una carta, ti vuoi operare al cuore a queste caratteristiche con questi rischi, sì, no, ciao, arrivederci, sì o no, se dici sì ti operano, se non dici no non ti operano, non nessuno ti obbliga a levarti un dente se è malato, a farti una cura o l'altra, è il minimo questo. Ma credo che questo sia talmente naturale che dai tempi immemori c'è negli ambienti umani. Invece con i cosiddetti infermi di mente, che poi non sono infermi di mente, sono persone che scusate, è un problema al microfono, infermi di mente, che tutto sommato viene criticata anche come non è una malattia l'infermo di mente, è una persona che pensa in maniera non normale, ma il non normale lo stabilisce qualcuno che definisce questi pensatori sono normali, quest'altri sono anormali, quindi è un arbitrio del tutto gratuito. Comunque, a parte tutto questo discorso, le REMS non ci sono, e quindi c'è stato questo ricorso che vedremo come andrà. Intanto hanno fatto capire che gli internati nell'OPG ritenuti infermi di mente, incapaci di intendere di volere, capiscono molto meglio, hanno un pensiero molto più efficace, molto più moderno, molto più civile, molto più vicino alla Costituzione che non i grandi soloni che hanno fatto le leggi e poi non le applicano, che in Parlamento non sanno mettere in piedi 2+2, tant'è vero che non hanno saputo manco fare le REMS perché non ci stanno. E insomma, questo dimostra che i reclusi nell'OPG di Montelupo Fiorentino sono molto più colti, avanzati, intelligenti e capaci di intendere e di volere dei nostri parlamentari. A voi il giudizio. I live above the grocer's store, owned by an Austrian. He often calls me down to eat, and he jokes about his broken English, tries to be a friend to me. But for all my years of reading conversation, I stand without a word to say. I can't see the bridge for the rain in my eyes. And the world is full of life, full of folk who don't know me, and they walk in twos or threes or more, while the lamp that shines above the grocer's store investigates my face so brutally, and my essays lying scattered on the floor fulfill their needs just by being there. And my hands shake, my head hurts, my voice sticks inside my throat. I'm invisible and dumb, and no one will recall me. And I can't see the water for the tears in my Allora, 15:46, l'ultima parte di questa trasmissione, che tra l'altro ricordiamo è l'ultima di questa di quest'estate, riprenderemo a settembre, i primi di settembre, però nel frattempo in quest'estate verranno messe in questo orario repliche di trasmissione vecchie, in modo che chi invece fatte in quest'anno, chi non ha sentito per motivi suoi, perché stava in giro, stava impossibilitato a sentire la radio, le può riascoltare alcune repliche di trasmissioni fatte durante il periodo fatte e quindi rimandate in onda durante il periodo estivo. Quindi noi dopo a fine trasmissione ci saluteremo con un abbraccio caloroso, ma speriamo non tanto, diciamo fresco più che altro, perché insomma il caldo già è asfissiante, e ci rivedremo a settembre. E proprio perché questo stacco di un mese e un po' di più dovrebbe permettere a tutti e tutte di riflettere su questo discorso, che non è ancora ben pregno e sviluppato, che però è in nuce, se diciamo, no? Perlomeno così dovrebbe essere, si dovrebbe sviluppare, ossia un cambiamento relativo della tendenza della repressione in questo paese. Sta avvenendo un po' in tutti gli altri paesi, chi più accelerato, chi meno accelerato. Ci sono delle controtendenze, chiaramente, perché delle forze politiche continuano a chiedere sempre più carcere, però c'è un problema economico, il carcere costa troppo. Perfino l'America, ho detto tempo fa, addirittura Hillary Clinton, che sapete, insomma, si sta presentando per le primarie per essere eletta prima candidata del Partito Democratico e poi ovviamente sfidare il candidato repubblicano per essere presidente degli Stati Uniti, ebbene ha contestato completamente le linee di politica repressiva del proprio marito, di Bill Clinton, perché Bill Clinton è uno di quelli che sull'onda dei repubblicani di allora aveva portato all'incremento della carcerazione. In America i dati dell'anno passato, del 2014, sono allucinanti, sono arrivati a 1.600.000 persone in carcere, in controllo penale interno, intramurario, e 3 milioni circa al controllo penale esterno. In tutto quasi 5 milioni di persone sottoposte a controllo penale. È una percentuale altissima rispetto alla popolazione degli Stati Uniti, la più alta di tutto il resto del mondo, cioè non c'è nessun paese che ha una quantità, una percentuale di persone sottoposte a controllo penale così alto come negli Stati Uniti d'America. Anche in Europa sono molto alti, ma molto al di sotto della percentuale americana. Negli Stati Uniti d'America hanno visto che però questo uso smodato del carcere porta voti ai partiti che lo propongono, però porta pure un sacco di spese molto alte e molto forti che vorrebbero ridurre. E poi non solo, hanno in America una grossa esperienza fatta nei decenni passati, quando lo Stato americano ha dovuto combattere le minoranze di colore che si erano auto-organizzate in maniera anche abbastanza efficace, gli afroamericani col Black Panther, col Black Party, il Black Panther, che sviluppavano sul territorio, siccome la gran parte degli afroamericani negli Stati Uniti d'America vivevano in quartieri particolari, i famosi ghetti neri, no? Perché lì erano stati inseriti per essere meglio controllati, sviluppavano forme di auto-organizzazione, anche di autosussistenza, di soccorso, di mutualità, che permettevano uno sviluppo anche attivo, politico, di questa popolazione. Ed erano veramente una spina nel fianco al controllo politico degli Stati Uniti d'America. E i governi, la polizia americana si è infiltrata, è dovuta entrare in questi insediamenti, in questi ghetti neri, per battere appunto le forme auto-organizzate come Black Panther e così via. Ebbene, ci è riuscito col meccanismo del controllo penale esterno, cioè arrestando le persone, mandandole in misura alternativa e poi con la possibilità di essere seguite dal controllo poliziesco. Questo è vero in ogni paese. La misura alternativa significa scontare la pena, 2, 3 anni, 4 anni, quello che ti danno di carcere. Ovviamente si tratta di pene non molto lunghe, a proprio domicilio, nella propria residenza, quindi nel proprio quartiere, lavorando, vivendo a casa, vedendo gli amici, avendo gli spostamenti molto limitati e controllati. Una persona che sta in controllo penale esterno, misura alternativa, che qui da noi si può essere semilibertà, lavoro all'esterno, detenzione domiciliare, affidamento al controllo dei servizi sociali e così via, può essere controllata 24 ore su 24 dalle forze di polizia in ogni momento della giornata, perché hanno un trattamento che dica, non so, alle 22 devi stare a casa, e se non vieni trovato a casa ovviamente si chiama evasione, quindi vieni portato in carcere, oppure quando per andare al lavoro devi fare questo percorso, devi stare in quel lavoro, cioè sei controllato 24 ore al giorno. E viene controllato anche tutto l'entourage, i compagni di lavoro, coloro che abitano con te, familiari, chi ti viene a trovare, se ti fermi a un bar, quelli che con te si prendono il caffè, la birra, quello che è, insomma viene controllato tutto l'entourage, l'ambiente in cui si muove la persona che ha fatto un reato e che è sotto controllo penale. Questo è un meccanismo che ritengono gli studi molto più efficace del carcere, perché mentre il carcere controlla la singola persona che viene incarcerata, il controllo penale esterno controlla quella persona e tutto l'entourage, tutto ciò che gli sta intorno. Questo, il passaggio dal controllo penale intramurario a quello esterno, parte da un presupposto che, soprattutto nei periodi di crisi come questo, il reato, sia esso la microcriminalità, il furto contro la proprietà, contro il patrimonio, eccetera, o anche il conflitto politico, nascono in degli ambienti ben precisi. Non è che uno esce di casa un giorno e si mette a fare la manifestazione oppure va a fare il furto, ma si organizza con le altre persone come lui che hanno lo stesso problema sul territorio, sia facendo la piccola banda che va a fare il furto, la rapina, lo scippo, eccetera, sia organizzando un'assemblea per fare il conflitto, eccetera. Quindi bisogna controllare il territorio, questo è il problema centrale. Ovviamente bisogna subito dire che se una persona sta in carcere oppure sta in controllo penale esterno, per esempio mettiamo in semilibertà, eccetera, per lui è meglio, per lui o per lei è meglio, perché il carcere sappiamo che è una brutta bestia. Però ragionando in generale, quindi ben venga questa cosa, bisogna capire che questa cosa può portare e porterà a un aumento del controllo penale esterno se passa questa linea. Questa è la linea del ministro della giustizia Orlando, e quindi sembra del governo, almeno se è vero che un ministro dovrebbe avere intorno a sé l'accordo della compagine governativa. Però in questo governo, sapete, ci sono anche le forze di destra, quelle di Alfano, che invece sono per il ricorso al carcere, così come Salvini, così della Lega, così come altri vogliono il ritorno del carcere, buttiamo la gente in carcere, così i piccoli proprietari o grandi proprietari o medi proprietari che stanno fuori si sentono più tranquilli. Questa è la linea, e ci danno il voto. Il meccanismo del carcere serve solo a portare voti, non a ridurre la criminalità. Questo ormai non c'è un testo sulle centinaia che ne girano fatti bene che affermano che il carcere fa diminuire la criminalità. Questa è una più grossa menzogna del secolo, perché non, i dati dicono che non è così. Viene fatta a fini elettorali. La galera si dà per fini elettorali. Quando si fa una legge che aumenta le pene è perché su quella legge nuova il partito che l'ha proposta prende circa più voti. Il problema invece, però, sul piano dell'organizzazione sociale, del mantenimento del controllo sociale, dell'ordine sociale, del sapere che in una situazione di crisi, che loro sanno meglio di noi, anche se non lo dicono, che non solo continuerà ad aggravarsi e non ci sarà la risalita, quindi queste società che sono vissute, non dico nel benessere perché mai c'è stato benessere per tutti, però insomma con una sorta di possibilità di vita per gran parte dei cittadini, come quelle europee, nordamericane eccetera, andranno in situazioni sempre più degradate, soprattutto le classi più subalterne, più basse, avranno difficoltà di campare e quindi dovranno essere, per forza si dovranno, diciamo, avviare verso l'attività extralegale. E allora si pone il problema del controllare laddove avviene la creazione del gruppo di persone che poi praticherà l'attività extralegale. Questo significa, è un po' quello che hanno già fatto con alcune decreti svuota carcere, che dicevano esplicitamente per i reati fino a 5 anni, per esempio, per i reati, per il primo reato, per gli ultimi 4 anni di pena eccetera, il giudice dà la misura alternativa invece del carcere, quindi svuota un po' il carcere e permette lo sviluppo della misura alternativa. Quindi questa infinità di persone inviate in misura alternativa, perché non portandoli in carcere, permette al giudice di essere più tranquillo nel poter dare anni di pena a una persona, sapendo che non va ad incrementare il numero dei carcerati, ma permette a una persona di stare sul territorio e quindi di essere controllata, non ingrandisce il carcere. Voi considerate che in Inghilterra, che già si è avviata da tempo su questo terreno, perché sapete, perché l'Inghilterra è quella che prima degli altri in Inghilterra, nei quartieri popolari degradati, perché hanno chiuso fabbriche anche lì, mancanza di lavoro, cioè si sono sviluppati questi riot, lì li chiamano così, i tumulti, quartieri, uno degli ultimi è stato a Tottenham, di ragazzi che non hanno né futuro di vita né possibilità del presente, che si incazzano, si organizzano e depredano supermercati, magazzini, insomma fanno cose di questo tipo, i riot, così come sono state nelle banlieue parigine e così via, un po' ovunque in Europa succede. Dove nascono questi riot, questi tumulti? Appunto là, in quei quartieri. Lì in quei quartieri si vuol portare in controllo. Bene, l'Inghilterra ha spostato la detenzione in carcere, è ridotta più o meno come da noi, 55.000, ma 260.000 sono in controllo penale esterno, cioè in queste stanno nella loro residenza ma hanno il controllo, entro 24 ore al giorno possono essere controllate dalle forze di polizia. Per far questo però ci vuole, come l'abbiamo detto l'altra volta, una nuova forza di polizia, chiamata polizia territoriale, che abbia la capacità di essere presente nel territorio, di avere una mappa precisa, di avere un controllo, sapere chi incontra chi amici di quello, le combriccole, i gruppi, gli amici, come si sviluppano. Quindi è una presenza molto forte, è molto presente appunto, e in Italia non c'è. La polizia di Stato, la PS, non è in grado, dicono loro, di fare questa cosa. Una proposta è quella di trasformare i 42.000 secondini, cioè la polizia penitenziaria, diminuendo le persone in carcere, una parte di questa addestrarli per questi nuovi compiti di controllo di polizia territoriale. Perché serve questa, altrimenti questo disegno salta. In Inghilterra è molto forte, in Inghilterra la polizia territoriale è quella più forte rispetto alle altre polizie ed ha un controllo molto forte sul territorio, che sì, poi scoppiano lo stesso riot, però gli permettono di individuare su, beh, il riot di Tottenham poi ha permesso 3.000 arresti, quindi ci avevano la possibilità di sapere chi erano, dove erano, come erano, insomma, quindi questo meccanismo qua. Allora, queste sono però in Italia le controtendenze, le difficoltà ai sindacati della polizia penitenziaria, cioè se dei secondini hanno detto no, non vogliamo fare questa cosa, noi già facciamo un lavoro, ma perché ci deve fare far quest'altro, insomma, sono contrari, forze politiche sono contrarie, però questa è la tendenza. Noi la seguiremo perché appunto vedremo questi 18 tavoli messi in piedi da ministro Andrea Orlando che produrranno a settembre-ottobre, dovrebbero trarre le conclusioni. Faranno proposte di legge, vedremo come si orientano e vedremo se questa linea di tendenza si sviluppa oppure no. Per dirla in termini cosiddetti, se volete questa parola che non uso mai perché non è mia propria, quelli in termini filosofici, questo discorso è stato già affrontato appunto in termini filosofici, quando da Foucault, Deleuze, tutti diciamo quegli intellettuali francesi che hanno studiato a fondo questo discorso prendendolo dall'analisi fatta a metà del Novecento dagli studiosi del carcere, della provenienza, dicevano che il passaggio dalla società disciplinare, quella basata sul carcere che ti disciplina, cioè ti fa diventare l'ometto che o la donnetta che sa, si sveglia alle 6 di mattina, va a lavorare, fa il bravo, ubbidisce agli ordini, poi torna a casa, mangia, si riposa, alleva i figli perché dovranno sostituirlo nei posti di lavoro e il giorno dopo torna a fare quel lavoro, questo per tutta la vita. Quello è il carcere disciplinante. Da questo si dovrà passare alla società del controllo, che è un po' diversa perché non c'è più la grande fabbrica dove era necessario l'operaietto, perché il carcere produceva, l'hanno detto questi grandi studiosi, ma addirittura coloro che prima del Novecento approcciarono a comprendere il carcere, non produce merci anche laddove si lavora, produce proletari senza proprietà